Tradizioni e specialità. C. Ascolta il testo. La cucina italiana rispecchia non solo le abitudini e i costumi delle varie regioni, ma anche le caratteristiche ambientali e climatiche della penisola, in una sintesi di ottimi sapori mediterranei. Tutte le 20 regioni hanno le loro specialità. In ogni regione ci sono sagre, cioè delle feste popolari dedicate a un prodotto di stagione o ad un raccolto, e numerosissime rievocazioni storiche in cui si riscoprono eventi storici e antiche tradizioni gastronomiche. Tra le sagre più famose ricordiamo quella del mandorlo in fiore, che si tiene in primavera, in Sicilia, le sagre del tartufo e della castagna, in autunno, in diversi centri dell'Umbria e della Toscana, la sagra del pesce di Camogli, in Liguria, e quella dei prodotti alimentari della costiera amalfitana, in Campania.